Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pardo occupato, ma fate voi. 800240024, Franco Piantaneda, il nostro creativo, Roberto Scaltritti in regia, io è tutto il giorno che lo cerco e non so nemmeno dov'è. Mi molla qui con la prospettiva di un amichevole della nazionale che conta come il 2 di picche sul prato. Eccoci. Della... Ah, ci sei? Sì, dove eccoci eri? Qua. Tutto il giorno che ti cerco. Esagerato. No, dico, tutto il giorno, non so neanche dove sei. Mi lasci qui con l'amichevole della nazionale che dicevo come conta come il 2 di picche a briscola. Gli ultimi sussulti del popolo dei moviolisti, il sindaco di Nocera, l'assessore sempre di Nocera che prende il daspo, ma è una brava persona, dice il sindaco. Le curve della Juventus chiuse, gli indonesiani che stanno arrivando. A proposito, lo sai che sabato Tohir incontrerà Pisapia? Sì, sindaco sì, di Milano. Lo sapevo, e poi lo va sapevo. A vedere l'imperdibile Inter Chiasso, amichevole di livello. Quella organizzata per Tohir. giustamente. E tu vai in giro a fare la bella vita, ma dove sei? No, sono a un incontro di uno dei principali sponsor, diciamo, di materiale sportivo che ha incontrato un po' di giornalisti di varie testate. Alto livello, jet set internazionale, insomma. Diciamo, la mia presenza qui già fa capire che il livello tanto alto non può essere. Insomma, come diceva Woody Allen, no, non accetterei mai. Sai cosa faccio io oggi in tua assenza? Che fai? Faccio la posta del cuore. Te lo dico subito. Sì. Cuore lo farò io. La posta... tenevo tantissimo. Amica all'ascolto. Così impari. Amiche. E amici all'ascolto. Di Orgenta. Faccio la posta del cuore, la fiera delle banalità sulla storia degli ultra, padroni del calcio, eccetera, perché non c'è uno che dice una cosa che non sia banale. E poi faccio. Più che altro mi sembra che ognuno difende il territorio, no? Cioè, ognuno difende il suo pezzettino, ma anche legittimamente, poi alla fine, perché non è, ognuno tiene famiglia. Però mi sembra che su quello, allora, gli ultra della Nocerina hanno parlato, hanno detto che loro non hanno minacciato, hanno semplicemente chiesto un atto di rispetto perché gli era stata negata la trasferta. Ma cosa vuol dire un atto di rispetto, scusa, secondo a parte il fatto che se sei un tifoso non è detto che devi andare a parlare con i giocatori o con gli allenatori, perché non sta scritto da nessuna parte. Questo è un problema a prescindere, io ti dico soltanto il virgolettato dei tifosi della Nocerina, che posso dire ad esempio l'altra sera, e loro ti dicono che non hanno minacciato, però... a una squadra che ha così tanti problemi, hanno dato tutto il supporto durante l'anno e di fronte al gesto del prefetto che gli ha negato la trasferta hanno chiesto un atto di solidarietà, cioè di non giocare la partita. Poi sono d'accordo con te che è una roba da matti, nel senso che in un paese normale c'è una regola, giusto o sbagliata che sia, io ancora non riesco ad avere un'opinione e posso soltanto augurarmi che in futuro gli stadi possano essere pieni, perché uno stadio senza tifosi che possono andare in trasferta è uno stadio sconfitto, è un calcio sconfitto, quindi in un mondo normale è ovvio che noi vogliamo che Salernitana Nocerina, ma comunque qualsiasi partita possa essere vissuta in un clima di serenità da tutte e due le tifoserie. Quindi è brutto che sia stato negato questo diritto, però poi se l'ha fatto il prefetto dei motivi ci saranno stati, no? Non ho dubbio di pensarla, così. Questa guarda diventa poi alla fine tutti contro tutti, per cui alla fine vale tutto, tutti contro tutti, e nessuno decide nulla, perché ieri le decisioni vocali sono state lo 0-3 a tavolino per la Salernitana e addirittura 1500 euro, che puoi pagarle anche tu, io no, ma tu puoi, di ammenda alla Nocerina, in attesa poi di vedere di giudice sportivo, si è riservato di consultare gli atti ufficiali. No, ma soprattutto con la possibilità concreta che se dovesse essere riconosciuto l'illecito sportivo, la Nocerina potrebbe addirittura pagare fino alla retrocessione, con penalizzazioni o fino alla retrocessione. Io sono per l'esclusione immediata, so che questa è una soluzione molto estrema che farà arrabbiare tutti i tifosi della Nocerina e dintorni, magari anche quelli della Salernitana, però sono per chi fa una cosa del genere. Esclusioni immediate, poi ne parliamo, individuiamo i colpevoli e vediamo cosa succede. Intanto sono anche per l'applicazione delle leggi dello Stato, quindi violenza e minacce e intimidazione fisica sono reati previsti dal codice penale, no, e dunque per quelli si va in prigione. Se c'è un prefetto che dice che non può andare in trasferta, non ci vai. che questo è anche il fallimento della testa del tifoso, l'abbiamo detto, sì. E bisognerebbe avere un atteggiamento anche un pochino più aperto e anche più critico, perché insomma è il solito discorso, no? Diminuiscono gli incidenti e chiudi le autostrade, diminuiscono gli incidenti stradali, sono bravi tutti, insomma sì. L'obiettivo è arrivare ad avere degli stadi che sono aperti, che siano aperti, con i tifosi ospiti che possono andare, nei quali non succede nulla, e mi sì. non è facile. Però insomma mi sembra un po' la vittoria di Pirro dire che c'è la diminuzione degli incidenti negli stadi, se poi tu le partite a rischio le fai fare senza pubblico. Certamente, no, certamente. Senti Pier, adesso ti lascio andare a mangiare, però poi mi racconti... No, che mangiare, c'è un dibattito. Intanto io convoco tutti gli ascoltatori a cominciare da Ettore da Milano, che è un po' che non lo sento e mi manca. 800 24 00 24, dunque corsia privilegiata per Ettore, cui poi faccio fare anche... la schedina degli spareggi per i mondiali, con Grecia, Romania, Portogallo, Svezia, Ucraina, Francia, Islanda, Croazia e uno strambo Giordania, Uruguay. Però per farti ingolosire ti dico anche il resto della scaletta di oggi. Tra poco, dopo il traffico, parlo un po' di moto, che tu sai che mi diverto sempre, certo. E aspetto un papà famoso che non è... Sì, poi parlo di Bruno Conti, ma non è Bruno Conti, ovviamente. Bella la lettera. Posta del cuore, dopo faccio, con calma. Bella, poi oggi faccio anche un po' di sex, drug and rock and roll. Vabbè, allora sei veramente, posso dirlo, sei veramente l'ultimo. Cioè, il giorno che c'ho la roba di lavoro, cioè, parli di sesso. Cioè, così? Vabbè, mica io, Tyson, eh? Ubi Maior. Allora, sentiamo più tardi. Il podcast, ci sentiamo dopo. Ci sentiamo ciao, più bello. Tardi. Ciao Pier. Grazie. Chiamate, siete convocati, ciao, 800 24 00 24, siete sempre tutti convocati con Franco Piantanini, il nostro creativo, Roberto Scatretti, regia dopo il traffico. Tutti convocati. Rossi, Rossi, Rossi, non Paolo, non Giuseppe, non Valentino, ma suo papà Graziano, che è un mio amico. Ciao. Ciao, ciao. Come ciao. Stai? Bene, bene, grazie. Tu? Io benissimo. Senti, bene, ti faccio sentire questa bella sviolinata. Ascolta. Ciao, ciao, ciao a tutti e soprattutto ciao a Mark, complimenti Mark, sei stato bravissimo quest'anno, bravo, te lo sei meritato. Grazie, grazie, ma Valentino l'ha detto al test di Malasia, mi ricordo che ha detto questo ragazzo va per il titolo. Vedi, ho l'occhio buono. Bravo. Grazie Valentino. Bravissimo. Ma Vale, questo ragazzo secondo te ha addirittura dei margini di miglioramento, come dicevamo prima in studio, o è già al 100%? Speriamo non tanti, speriamo che l'anno prossimo non migliori tanto, ecco. Sicuramente quando il primo anno vai già così forte, tutti sperano, almeno i suoi avversari sperano che non riesca a migliorare tanto, ecco. Però è stato bravo, ha fatto una cosa, dai. Unico, forse un'altra per solo Robert, no? È riuscito a vincere all'esordio, quindi oggi hai scritto una pagina del motociclismo importante. Una cosa che rimarrà, che si ricorderanno tutti per sempre, ecco. Graziano, si vogliono bene. Sì. Mi sembra che Valentino lo abbia incoronato con molta gentilezza, no? Mark Marquez, il cabronsito. Ma se... guarda, Valentino gli ha voluto bene da quando è arrivato, già dalla Moto 2, perché se lo è sempre visto molto, molto simile a se stesso, ecco. Forse all'inizio è proprio una fotocopia di se stesso, quindi gli vuole molto bene Valentino. Sì, senti, cioè, è anche vero, un rookie non aveva mai vinto il mondiale al primo colpo, c'è anche da dire che nessun rookie aveva mai avuto una moto così. No, Kenny Roberts non era un rookie, no? Kenny Roberts perché non era un rookie? Perché non era un rookie? Non so, lui ha vinto il mondiale all'esordio. Sì, Kenny Roberts ha vinto il mondiale all'esordio, veniva dalle corse americane, era un po' più anziano e sgamato rispetto a Marquez, ma questo è uno che ha fatto in Europa la sua trafila, Moto 3, Moto 2, Moto Mondiale, Moto GP. Giusto, giusto, però era un rookie anche Kenny Roberts in ogni caso. Sì, quindi possiamo dire la seconda volta nella storia. Resta il fatto che normalmente con i regolamenti precedenti un rookie non poteva salire sulla moto di un top team, o mi sbaglio? E un rookie non poteva guidare una moto ufficiale, e credo che il regolamento lo abbiano modificato, esatto, giusto l'anno scorso proprio per Marquez. Esatto, è così. Questo per onor di cronaca. E questo è un qualcosa che nulla, secondo me, toglie al merito di questo ragazzotto, ecco. Senti, Graziano, il voto alla stagione di Valentino. Lui ha detto sono soddisfatto a metà, quindi quel voto può essere un 6 o secondo te di più? Quel voto lì, tu sai che la stagione di Valentino di quest'anno comincia, va avanti e finisce e porta ai risultati dell'anno prossimo, no? Che dovrebbero, secondo me, speriamo, portare a un risultato finale di questi due anni con Yamaha, che dovrebbe essere un risultato molto molto buono, molto speciale, forse se clamoroso oppure quasi, no? Quindi dare un giudizio adesso è prematuro, perché questa cosa bisognerebbe che io te la dicessi verso ottobre dell'anno prossimo. Sì, aspettiamo un annetto, teniamo il voto in sospeso per un anno. Valentino è il futuro, per l'appunto, perché è quello che importa veramente. Con Galbusera al posto di Burgess, che cosa cambia, che cosa sta cercando Valentino con questo cambio? Allora, Valentino sta cercando qualcosa che gli possa dare un supplemento di entusiasmo, un supplemento di voglia, un supplemento di carica. Però queste cose generalmente non si controllano, no? Non è che dici tu adesso dalla prossima gara ci metto più entusiasmo e comincio a prepararmi diversamente dal venerdì. Non è così, quello l'entusiasmo, un po' più di entusiasmo viene, se viene, per conto suo incontrollato. Qualcosa però devi fare, perché quando nelle squadre di calcio i risultati cominciano a mancare e non si segna più, appunto perché manca l'entusiasmo, qualcosa bisogna cambiare. Allora là cambiano l'allenatore. Questo qui mi sembra una specie di un cambio di allenatore, anche sì, se è un capomeccanico, sì, è vero, un capotecnico, non è un allenatore, però è per cercare quel motivo, quello stimolo che viene da che cosa non si sa, per cercare che venga. Sì, ecco. Per vedere qualcosa che cambia e che cambi in meglio, per trovare magari anche sensazioni diverse sulla moto, forse anche per quello, no? Sensazioni diverse sulla moto, senz'altro, però soprattutto più voglia, no, perché Valentino di voglia ne ha tanta, però motivazione, diciamo feeling, qualcosa che i campioni, né te né Valentino, forse qualcosa stiamo cercando. Noi stiamo cercando di girare due decimi al giro più forte. Ecco, l'obiettivo è due decimi al giro più forte. Mi dici due parole invece su questo nuovo team di Valentino, su questa scuola piloti, su questo VR46, su questa nuova esperienza? Ma tu ci sei dentro questa nuova esperienza? Io sono il direttore generale, come sempre. Sì. Come sempre in tutte le cose di Valentino. Io sono quello che non serve a niente, no? Altro che a presentarsi agli eventuali poliziotti qualora dovesse servire per qualche motivo. Hai capito? Sarei quello che deve andare in prigione qualche giornata. E quindi la tua utilità ce l'hai, benissimo. Ma dentro cosa c'è? L'obiettivo di questo invece qual è? L'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo è andare trovare un po' del tempo perduto rispetto ad esempio alla Spagna, soprattutto alla Spagna, che oggi mette tre uomini sui primi tre gradini della 125 e tre uomini sui primi tre gradini della MotoGP, voglio dire. Sì. Poi forse anche nella Moto2 adesso non è. Però questo 15 anni fa eravamo forse noi italiani insieme agli americani nella posizione in cui oggi è la Spagna, mi senti? Sì, certo che ti sento, ecco. Ti sto ascoltando. E quindi dobbiamo recuperare un gap importante adesso, e Valentino è il primo, se vogliamo, dopo quello che ha fatto la Federazione Motociclista questi ultimi due anni, è il primo privato sì. che si mette a lavorare per questo obiettivo, con naturalmente l'aiuto della federazione, dalla quale federazione ha avuto il pilota Fenati, che secondo me è senz'altro il giovane italiano più talentuoso, interessante, sì, ecco. Sì, quello sì. Meglio giocabile, ecco. Sicuramente, come ha dimostrato questo campionato nel Moto3. Per chiudere, una battuta sul secondo e sul terzo: primo Marquez, secondo Lorenzo il Magnifico, secondo me il miglior mondiale di Jorge Lorenzo da che corre. Il terzo invece, sai, l'avvocato Agnelli un giorno definì Roberto Baggio coniglio bagnato, vorrei usare la stessa definizione per Pedrosa. Allora io debbo spendere delle parole di grande piacere per entrambi. A me Pedrosa piace da matti, non ti dimenticare che sono 10 anni che Pedrosa è sempre lì che vince per puntare al titolo mondiale. Poi non mi dimentico neanche che non ce l'ha mai fatta, però. Non ce l'ha mai fatta, però essere ogni volta uno di quelli che ci prova è una grande, comunque, una grande qualità, e vuol dire essere ad un grande livello in ogni caso, no? Sì. Invece Lorenzo quest'anno è stato più forte, il Lorenzo più forte, come hai detto tu, di sempre. Probabilmente forte come Marquez, al punto che si sono giocati il campionato fino all'ultima gara e fino forse all'ultima curva, e quindi Lorenzo più di questo non poteva fare. Ha fatto delle cose meravigliose quest'anno. Dunque, Graziano, io ti saluto con questo messaggio di Franco. Allora, che scrive: ho visto a Misano Graziano battere con un Benelli 2.52 tempi 30 moto da Gran Premio Harley Davidson, un fenomeno pari a Valentino, peccato che cadesse malamente. È tutto vero? Ringrazio molto, io non me lo ricordavo questa cosa. Se lo ricorda Franco. Senti, ci vediamo a fare un giro in moto. Sì, va, ti aspetto. Ciao Graziano. Grazie. Un abbraccio. 800240024 Borsa, poi vi aspetto qui. Sì, Graziano era ed è attualmente veramente un matto, ecco. E, è stato un pilota bravo, di grande talento, che però non è riuscito mai a portare a casa il risultato grosso, appunto per questo, perché era imprevedibile e per lo spettacolo di un sorpasso non era un calcolatore che pensava che quei punti gli sarebbero serviti per vincere il campionato, ecco. E quindi è stato quello. Diciamo che io sono arrivato a finire quello che lui aveva iniziato. Tutti convocati ogni giorno dalle 2 alle 3.20, dopo il GR delle 2 fino alle 3.20. 800240024 per parlare di sport, quello che vi pare. Giorgio da Torino, buongiorno. Buongiorno, senta, sono toscano, eh. Sì, sento. Volevo dire, ho capito subito. Ho sentito Graziano lì. Sì? Che parlava di Rossi. Sì. In autostrada hanno fermato i camion di Rossi, quelli neri con scritto 46, sì, con il nuovo programma che fa, c'era la polizia che li fermava. Quindi ha detto: intervengo quando che c'è la polizia che... quando c'è un problema, che se c'è uno che deve andare in prigione tocca a me, capito. Quindi ho visto questi camion fermi che la polizia che li controllava. C'era qualche problema, chiamiamo subito Graziano e diciamo: vai a dove sono i camion, dove sono i camion? Sulla tangenziale, su Genova-Torino. Genova-Torino, Graziano, se ci senti, fai uno squillo, perché può essere che abbiano bisogno di te. Magari ti legano, ti portano dentro. Giorgio, c'è dell'altro? Oltre a questa segnalazione per chi viaggia? Io sono interista, quindi... Quindi? Vi ringrazio che voi difendete l'Inter molto spesso. Ma non lo so, a me continuano a dire tu sei anti-interista, sei permaloso, sei ironico quando parli dell'Inter. Ma a me non sembra. L'Inter è una grossa squadra, ha vinto tanto, è stato rubato tanto. Vabbè, quindi va bene così. Comunque è un patrimonio importantissimo delle nostre emozioni, perché l'Inter comunque è una squadra che innegabilmente emoziona, ma sì, proprio perché c'è scritto nel DNA, positivamente, negativamente, fa sorridere, fa arrabbiare, vince, perde in modo mai banale. Negli anni 70. Quindi adesso è un patrimonio del nostro calcio, speriamo che gli indonesiani ce la trattino bene, se no toccherà a Papà Moratti reintervenire, perché mi pare che abbia questo... potere. Adesso sono lì in minoranza e controllo, se poi Toir far furbetto io ricompro tutto. Questa mi pare sia, grosso modo, in maniera molto così molto banale, estremamente semplicistica, questo mi pare sia l'accordo. Gaetano da Salerno. Sì, buonasera. Buongiorno. Buongiorno, io ero presente alla partita, uno dei 9.000 presenti alla partita di Salernitana-Nocerina. Partita, alla pagliacciata. Alla pagliacciata, quei 20 minuti ridicoli inscenati dalla Nocerina. Io ero presente pure 25 anni fa quando si è giocato l'ultimo derby. Sì. L'ultimo derby si è giocato allo Stadio Vesturi, al vecchio stadio di Salerno, che era in pieno centro cittadino. Uh-huh. E la partita si è giocata con entrambe le tifoserie. Uh-huh. E così anche a Nocera. Quindi negli anni 80 tutti i derby con la Nocerina e anche con altre squadre molto vicine a Salerno si sono sempre giocati, sì, con qualche tafferuglio, qualche scaramuccia, però si sono sempre giocati, e questa è una cosa assurda, perché lo stadio Arechi è uno stadio a norma. No, ma non è questione di norma, Gaetano, ma non è una questione di norma, certamente sarà uno stadio migliore di quanto non fosse negli anni 80. Poi se lei mi dice che furono domeniche tranquille, io non ci credo, perché non, ovviamente non ricordo la cronaca di quei giorni, però immagino non fossero dei giorni tranquilli, immagino non siano state delle belle domeniche di festa, immagino piuttosto siano state delle domeniche di molto calde sul fronte dell'ordine pubblico, come si dice oggi. Questo sì, però le posso assicurare che giocare in pieno centro cittadino, lo stadio Vissuti, era tutt'altra cosa. A Salerno, alla Arechi, si sono giocate partite col Napoli, derby col Napoli, con 6.000 tifosi del Napoli al seguito, o con il Verona nella finale dei playoff con 2.000 tifosi del Verona al seguito, non ci sono stati incidenti rilevanti. Beh, quindi la partita secondo me si poteva giocare. Bisogna con intendere, i no, ma bisogna intendere cosa. Bisogna capire cosa si intende per rilevanti, perché insomma certe partite sono fonte di incidenti. Adesso si tende a prevenire questi incidenti che hanno un lungo background, no? In questi confronti, con delle misure per me inutili, come appunto il divieto di trasferta, la tessera del tifoso, eccetera eccetera, perché questo sistema si è dimostrato inefficace, non per altro, soltanto per questo abbiamo avuto il trionfo degli ultra. Che poi quello che voglio dire, no, lo dico tra poco, tanto dobbiamo fare la posta del cuore. Pensavo di averle vissute e provate tutte. Poi mi ritrovo, a 58 anni, sul divano, davanti alla TV, con le lacrime agli occhi e tua madre accanto. Non spiccica parola, mi guarda incantata e troppo emozionata e felice per parlare e rompere l'incantesimo. Ci avevi già fatti piangere l'anno scorso con Brunetto, ora Manuel. La stessa scena, la stessa gioia. Perché quell'abbraccio racconta una famiglia, la nostra famiglia. Perché tutti conoscono il grande calciatore che sei diventato, in pochi però sanno quanto tu sia un grande uomo, un grande figlio, un grande padre. Mi capita spesso di ripensare a quella mattina in cui mi chiamò il direttore sportivo della Roma, Franco Baldini, per comunicarmi la tua cessione al Cagliari in comproprietà per una stagione. Proprio in Sardegna, pensai, la terra in cui io e tua madre ci eravamo innamorati nell'estate dell'82. Ero felicissimo. Anch'io poi mi sono dovuto fare le ossa al Genoa prima di giocarmela alla Roma. Forse all'inizio in cuor mio speravo di rivederti presto con la maglia giallorossa. E quel gol al Perugia sotto la Sud resterà un ricordo indelebile. 15 anni dopo è andata in tutt'altro modo, una storia diversa, forse più bella, di sicuro speciale. Hai fatto una scelta importante, la più difficile, ma alla fine hai vinto tu. Davanti? Proseguo nella lettera di Bruno Conti. Va bene. Ricordo i primi momenti al Cagliari, l'esordio, i sogni, le difficoltà. Per anni ti sei portato sulle spalle quel cognome pesantissimo, ingombrante. Soffrivo quando la gente ti paragonava a me, non era giusto. Col tempo però hai zittito tutti. Poi li hai conquistati sul campo. Col talento, con la forza, con il carattere. In questo sì siamo uguali, perché entrambi siamo testardi e corretti allo stesso tempo. Non cerchiamo sotterfugi. Guardiamo tutti in faccia, a testa alta, con la cultura del lavoro e della famiglia. I due gol al Torino mi hanno ricordato quello al Napoli del 2008. Proprio in questi momenti vengono fuori gli uomini duri. E da capitano vero a fine partita ti ho ascoltato commosso. Hai dedicato la vittoria ai compagni e ai tifosi. Forse dal vivo io e tua madre non ti abbiamo mai realmente detto quanto siamo orgogliosi di te. Oltre ad aver onorato il nostro sangue in campo, hai portato avanti, grazie a tua moglie Valeria, i valori della nostra famiglia in una società complicata, problematica e superficiale, come faceva tuo nonno Andrea, muratore e padre di 7 figli. Per questo, figlio mio, non smetteremo mai di ringraziarti. Questa la lettera, beh, più posta del cuore di così si muore, la lettera pubblica di Bruno Conti a suo figlio, capitano del Cagliari. Domenica ha fatto 300, come scrive un nostro ascoltatore qualche giorno via SMS, con due magnifiche ciliegine sulla porta del Torino. Ebbene, questa la lettera di Bruno Conti a Daniele. Tutti convocati. Dato il suo recente scontro con la Chiesa, lei crede in Dio? Vabbè, oggi va così, è il giorno delle rubriche, la posta del cuore, eccetera, eccetera. Ce n'è anche un'altra che ci siamo inventati, ma data dalla cronaca, Angeli e Demoni. Dove? A Roma, perché si passa dai maghi della Roma all'esorcista della Lazio. Roma, Roma, magica Roma. Lo dice la parola stessa, lo dice. Ma io sono un cattolico praticante, vabbè, cristiano, sì, mi ma non credo alla magia, credo poco. Siccome ho una visione escatologica, credo sempre al valore, al valore del bene. Presidente, buongiorno. Mi sente, presidente? Lo sono pronto? Sono Alfonso, presidente, non ci conosciamo. Io sono un mago. E mi piacerebbe mettere... Ma se ne va da quel paese, va, si vergogni. Ma io non lo so, non voglio sì, sapere. Sì, no, però lei lo deve sapere. Io ho una visione cattolica cristiana, quindi... non ho questa visione, come dire, legata, esoterica, quindi... Lasci per... Infatti, mentre la Roma si dà all'esoterismo con i 5 maghi, che però di recente non funzionano più tanto bene, ne serve un altro paio, tra zampe di coniglio e sortilegio e pentoloni, a Formello c'è un prete che sabato è andato a benedire la Lazio. Io non ho finito la storia della posta del cuore perché è un'altra missiva da leggermi, non dolce come quella di Bruno Conti a Daniele, però ho anche ascoltatore in linea, quindi mi preme parlare con loro. Torno a Salerno volentieri, Gaetano e Vittorio. Buongiorno Gaetano. Sì, stavamo parlando prima della partita, sì. Del derby. Poi l'altro discorso che volevo è la tessera del tifoso. Cioè, tessera del tifoso serve a niente, l'abbiamo capito già, l'avevamo già capito prima che fosse obbligatoria, anche perché secondo me è qualcosa che lede in maniera grave i diritti individuali di privacy, perché io a far schedare i miei figli non ci penso nemmeno, piuttosto non vedo neanche una partita di calcio in vita loro, però... abbiamo avuto prove, controprove, riprove e non solo tra indizi, insomma, del fatto che la tessera del tifoso non serve, non funziona, è inutile, se non per non so, obiettivi di marketing, di merchandising, di mailing, non so cosa possa, quale utilità pratica possa avere, però non mi risulta che qualcuno dentro uno stadio sia stato pizzicato grazie alla tessera del tifoso. Attendo notizie in contrario, vediamo poi quanti sono, visto che la tessera del tifoso è obbligatoria per tutti, vediamo quanti ne hanno pizzicati dentro lo stadio a delinquere, individuandoli attraverso la tessera del tifoso. Tornando alle lettere, io ho una mail che era arrivata a Dario Ricci per A Bordo Campo, ma me ne sono impossessato, chiedo scusa ad A Bordo Campo naturalmente, che vi invito ad ascoltare bene la lettera, che non è firmata, è firmata soltanto: distinti saluti da un abbonato, non so ancora per quanto, della Nord di Torino Juventus Stadium. Ebbene, scrive, non la leggo tutta perché è molto lunga, mai e poi mai avrei pensato di trovarmi a scrivere una lettera di questo genere, ma la scrivo perché sono profondamente deluso da tutto e da tutti. Sono un abbonato allo stadio ormai da anni, andavo anche all'epoca di Platini e ora sono un abbonato del settore Tribuna Nord e sono arrabbiatissimo perché purtroppo sarò costretto a non andare allo stadio per un turno a causa di 200 deficienti, perché non erano di più, che hanno partecipato al coro che non sto a ripetere. Mi chiedo a cosa servono tutte le telecamere, la tessera del tifoso, i biglietti nominativi, i posti a sedere assegnati, se poi si chiude indiscriminatamente un settore intero, anche se a partecipare al coro sono stati in tutto 200 persone, penalizzando così chi come me va allo stadio con enorme sacrificio, perché non dimentichiamoci che l'abbonamento ha il suo bel costo per divertirsi e partecipare con passione alle sorti della propria squadra del cuore. Sono deluso e arrabbiato con tutto il mondo calcio, che punisce un settore intero per dei cori, seppure molto deplorevoli, ma poi non fa niente per fermare le violenze fisiche che sono ad esempio verificate domenica sera allo Juventus Stadium, perché qualcuno vi deve spiegare perché a quelle bestie che erano nei settori ospiti domenica prossima potranno andare indisturbate allo stadio, mentre io non potrò andarci per dei cori, ripeto, deplorevoli, che io come altri non hanno cantato, ma pur sempre dei cori, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vi racconto un episodio, una stupidaggine personale, però, che è questa. La settimana scorsa, mi pare venerdì, incontro un tizio che conosco di sfuggita, che è un cliente abituale della curva degli ultra della Juventus, ma non un capo tifoso, è uno di quei soldati semplici, cioè di quei burattini che vengono utilizzati. Mi ha detto: guarda che te lo dico già adesso, facciamo chiudere la curva domenica con il Napoli, facciamo chiudere la curva. Ho detto: bravi, complimenti, facciamo chiudere la curva, pronto, detto e fatto. Quindi si sapeva già, era già tutto previsto, come chi lo canta cocciante, non ricordo più, era già tutto previsto. Si è puntualmente verificato ed è questo un ulteriore episodio. L'altro giorno dicevo di questo spostamento dell'oggetto del contendere, perché adesso, questa è la mia impressione, ma mi pare avvalorata dai fatti, la disputa, il confronto, anche fisico se vogliamo, non è più tra opposte fazioni di tifosi che non si sfiorano nemmeno più, quasi non si guardano, ma tra i gruppi di tifosi organizzati e le società. Questo perché? Perché c'è gente che fa il tifoso di mestiere e che quel mestiere lo difende perché ci ricava denaro. Denaro che è per le trasferte, per la gestione delle trasferte, per la gestione dei biglietti, per la gestione delle coreografie, per il merchandising, e questo quello paralegale. Poi c'è tutto il settore dell'illegalità che va dal commercio di droga ad altre cose illecite. Ebbene, c'è della gente che fa il tifoso di mestiere e difende semplicemente il suo lavoro, come? Con il ricatto e con gli strumenti che ha a disposizione. Vittorio Salerno. Buongiorno, ciao. Ti volevo chiedere una cosa, io volevo chiedere due cosine, se mi era possibile chiederle. Certo che. Allora, io volevo sapere, prima di tutto, per i tifosi della Nocerina, forse per i giocatori della Nocerina, forse hanno potuto anche fare questo, perché loro, sapendo che non retrocedevano, non lo possiamo fare perché non ci mandano in un'altra categoria. Poi volevo ricordare il fatto, giusto per ogni cosa, se la prendono con Allegri nel Milan. E l'ultima cosa, una constatazione giusto per i tifosi del Napoli, perché non so, loro dicono sempre l'arbitro qua, l'arbitro là, ma parliamoci chiari, il Napoli non vince con la Juve dall'ultima volta. Il Napoli che ha vinto con la Juve è stato in Coppa Italia, poi non ha poi vinto, che io mi ricordi. E poi volevo sapere Fabio Grosso che fine ha fatto, questo volevo sapere. Chi? Grosso. quello che Fabio Grosso? Fabio Grosso, l'ultimo rigore. Sì, no, Fabio Grosso, l'autore del rigore mondiale, ce lo ricordiamo bene, non avevo ben capito il cognome. Fabio Grosso, non so attualmente che cosa faccia, ci informiamo e magari un giorno lo convochiamo, perché ragazzo di grande intelligenza, anche verbale, oltre ad essere stato un eccellente giocatore. E dunque, quanto al Napoli, sì, Napoli non vince con la Juventus da molto tempo. Mi pare che nelle ultime N partite abbia subito 8 gol senza neanche segnarne uno. Questo è un dato parziale. Torno a ripetere, l'altro giorno è stato battuto in modo chiaro ed evidente dalla Juventus. Quanto ai tifosi della Noce, quanto al discorso sulla Nocerina, eviterei. Così, retropensieri di questo tipo han fatto così perché tanto sanno che questo non comporta nessun danno, magari è anche vero, però a questo punto io torno a ripetere, si arrabbieranno i tifosi di Nocerina, sindaco di Nocera, magari consigliere comunale con delega allo sport che ha preso il DASPO, si arrabbieranno tutti, ma l'unico provvedimento serio sarebbe quello di escludere immediatamente la Nocerina dal campionato, perché secondo me l'unico provvedimento con un senso è questo. Grosso fa il vice allenatore della primavera della Juventus, l'allenatore, il capo allenatore è Zanchetta. Lorenzo da Milano. Sì, pronto, ciao. Ciao. Io volevo tornare un attimo sul discorso della tessera del tifoso, sì. Perché anche, cioè, si vede che questo è un problema non solo dei tifosi ma anche delle istituzioni. Io per esempio ho comprato un biglietto per andare a vedere Italia-Germania venerdì a Milano, non posso andarci e per cambiare il nominativo del biglietto ho dovuto spendere mezza giornata, perché le regole, certo, che valgono in campionato adesso valgono anche a livello più ampio, anche per un amichevole che sicuramente non presenta nessun tipo di pericolo, sì. E quindi dico, il vero problema forse è che anche a livello istituzionale non c'è un sistema che favorisca il tifoso vero, quello che vuole andare a vedere la partita. Sì, che è un sistema che penalizza la gente normale. Secondo me questo è un sistema che penalizza la gente normale che vorrebbe andare allo stadio e che di fatto non ci va e fa benissimo, a mio parere. Lorenzo, grazie. Ci sentiamo dopo il GR 80024 0024 al numero verde. Tutti convocati. And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways. L'avevo promessa, ragazzi. Sesso, droga, rock and roll. Lots of other ways. Siamo all'angolo dei cattivi ragazzi, il più cattivo di tutti, Mike Tyson. Sta per uscire negli Stati Uniti The Undisputed Truth, Indiscutibile Verità, e ci sono varie anticipazioni. Allora, vi ricordate, qualcuno di voi si ricorderà, dato la bizzarria dell'episodio di Davis Licciardi, un fondista che venne squalificato qualche tempo fa perché beccato a fare la pipì all'antidoping con un pene finto. Ebbene, Licciardi non è nessuno, Tyson è diverso. Tyson racconta, ha ammesso di aver combattuto più volte sotto l'effetto della cocaina, ma di aver sempre aggirato i controlli antidoping grazie ad un pene finto ripieno di urina pulita. In sostanza, il suo assistente, il suo massaggiatore, dopo il combattimento riempiva questo affare con dell'urina pulita e Tyson lo nascondeva nei pantaloncini e andava a fare l'antidoping. Scrive Mike, la storia di tutte le guerre è una storia di droga, tutti i grandi generali combattenti erano drogati in battaglia, così anch'io, ho finito il match, il mio assistente faceva la pipì in un pene finto che io nascondevo dentro le mutande, con quell'urina riempivo le provette antidoping. Mamma mia. E poi in questa Undisputed Truth c'è anche un lunghi capitoli dedicati alle sue performance sessuali avuti in cella con diverse visitatrici che, scrive Tyson, facevano la fila per venirmi a trovare, oltre alla relazione a pagamento avuta con una addetta all'antidroga in cambio di $10,000. una detenzione così promiscua da fargli desiderare, lo scrive lo stesso Tyson, una volta fuori, di staccare la testa a qualcuno, magari il suo odiatissimo ex promoter Don King, proprio per poter ritornare in cella. Mi viene voglia di infilare in questa rubrichetta, anche se non c'entra con sex, drag e rock and roll, ma si parla sempre di cattivi ragazzi, uno dei soliti cattivi ragazzi per la verità, ex allenatore dell'Inter, provate a indovinare nome e cognome, bravi, risposta esatta, José Mourinho, che ha provocato un discreto tafferuglio nel sottopassaggio nella partita con il West Bromwich, perché ha rimbrottato Olson, giocatore del West Bromwich, quale si è alzato e gli ha detto ma sta zitto e vaffanculo, avrebbe detto lo svedese a Mourinho, che lo aveva ripreso dopo essere caduto per terra, e Mourinho è andato e gli ha detto tu sei un giocatore, non sei mica un giocatore di calcio, tu sei un giocatore da topolino nel tunnel parapiglia fra molti calciatori, in una gara che già era abbastanza accesa. Mica male questo, eh? 800 24 00 24, un numero verde. Avremmo anche un'altra rubrichetta che possiamo anche far sentire, eh? Cosa dite? Che riprendendo il discorso di prima, sulla tessera del tifoso, sui giorni successivi a quel putiferio di Nocera, eccetera eccetera, ebbene il lunedì si strilla da tutte le parti, nei giorni successivi ci sono invece c'è invece la fiera delle banalità, cioè le dichiarazioni più banali possibili, normalizzatrici, si cerca di ricondurre il tutto in un ambito pseudo normale, e questo secondo me è un grave problema. Allora, sentiamo che cosa hanno detto Prandelli su questo argomento e poi anche il Presidente del Consiglio Enrico Letta. Abbiamo perso tutti e col senno del poi probabilmente dovevamo gestirla forse meglio. Sono riflessioni che il calcio deve fare, che la società deve fare, che una città come Nocera deve fare. Ci debba essere rispetto a fatti gravissimi come quelli avvenuti domenica sulla partita di calcio che ha coinvolto la Nocerina, tocco subito un punto, tolleranza zero. L'effetto negativo di una vicenda come quella è stato un effetto negativo ed è un effetto negativo drammatico nei confronti non soltanto dei valori che il mondo dello sport trasmette. Ricordiamoci sempre che i nostri figli sanno chi è il calciatore, sanno chi è l'allenatore della squadra, non sanno chi è il Presidente del Consiglio, ma sanno chi è l'allenatore e chi è il calciatore, ascoltano quello che dice, quelle parole, quegli atteggiamenti sono per loro un valore. Adesso vedremo se arriverà questa tolleranza zero che io sento invocare ogni volta succede qualche casino in giro per i campi di calcio, ogni volta si invoca la tolleranza, questa benedetta tolleranza zero che mi sembra un po' come Godot, come la roba fenice. Il tennis ha invece un problema: per andare a vedere le partite i biglietti costano molto, sono sempre pieni gli stadi a differenza di quelli del calcio, e non serve la tessera del tifoso. Stefano Meloccaro da Sky, ciao. Eccoci, buongiorno Carlo. Sì, io direi tolleranza zero per il rovescio a due mani. Per legge bisogna tornare a rovescio a una mano, capito? In modo da restaurare il tennis all'antica. Ma sai, quello non torna più, Stefano. No, ma scherzo, infatti, no, va bene così. Perché quelli che avevano quel tocco non ci saranno, e poi anche perché un conto è giocare la volée a una mano dopo che ti ha tirato un rovescio, che ne so, anche Connors, che era uno che tirava forte, un conto è giocare quella pennellata sul rovescio di Nadal. No, in realtà ovviamente scherzo, però devo dire che anche nell'ultimo Masters o ATP World Tour Finals, insomma, abbiamo assistito a belle partite comunque anche moderne, nel senso che in realtà i detrattori del tennis moderno rispetto a quello di 20-30 anni fa dell'epoca aurea adesso si devono un po' ricredere, perché comunque si è tornati a giocare anche un po' di fino, perché era talmente diffuso ormai il tennis muscolare che come contromisura, di cui peraltro Rafael Nadal è l'icona, no? Esattamente, allora si è tornato, ma lo stesso Nadal, guarda che gioca, carezza la palla meglio di quanto normalmente si creda, dell'immagine che lui ha. Sì. È peccato che lo faccia così raramente, mentre Djokovic è un giocatore che trovo estremamente divertente. Lo è, per altri versi, però a suo modo, sai, forse secondo me è leggermente più divertente da vedere Nadal, perché è stato talmente bravo ad aggiungere tanti pezzettini nuovi al suo tennis, che alla fine forse è più Djokovic, ripeto, siamo 51-49, però sì, Djokovic è un pochino più automa, è un pochino più automatico nel suo tempo, poi è divertente per altri aspetti, invece Nadal forse ultimamente, sai, dei due è quello che forse ha aggiunto qualcosa di più a livello spettacolare. Resta di fatto che però certo non sono, cioè Federer è rispetto a loro due come rendimento, altra come cosa, come stile è un'altra cosa, altra cosa. Comunque la ricerca di certi angoli strambi di Djokovic a me diverte parecchio. Dove può arrivare? Uno 26 anni, l'altro 27, nonostante Nadal sia tale da un sacco di anni, quindi siamo portati magari a credere sia un po' più anziano, invece no, sono ancora tutto sommato nel pieno dell'età tennistica. Dove arriva questo dualismo? Lo resteranno, perché secondo me per altri, io credo, perché per altri 2-3 anni almeno sono loro due, uno e uno bis, cioè loro due ormai si spartiscono tutto, comunque vada sarà un successo, perché uno torna numero uno del mondo, cioè Nadal a fine anno, per la terza e l'altro volta, gli vuole togliere la corona. E l'altro batte, capito? Perciò proprio invece l'uno batteva l'altro quando quell'altro era due e l'altro uno, cioè sono veramente, oggi loro due sono un gradino sopra gli altri. Murray i punti ormai li ha soltanto sulla schiena perché si è operato, per cui deve aspettare di tornare a giocare. Federer prova, ha dimostrato che ancora può giocare a quel livello lì, però insomma c'è ancora un po' di differenza. Del Potro anche, uno che quando è in giornata li batte tutti, ma non con la continuità però che servirebbe. Certo, leggo che insomma il tennis ha bisogno, io credo, di questi dualismi, lo sport ha bisogno di questi dualismi, di personaggi. Djokovic lo è, Nadal un po' meno, però 39 incontri, la loro rivalità è da primato, quella precedente era tra Landley e McEnroe. Sì, ebbene... no, hanno giocato più partite di Landley e McEnroe, restano più finali, cioè loro sono i secondi in classifica come numero di finali giocate, ma insomma poi al di là dei numeri, questo ci dimostra quanto questi siano forti, cioè Landley e McEnroe, voglio dire, ogni tanto perdevano, Sampras ogni tanto perdeva, questi non perdono veramente mai, cioè per farli perdere deve succedere un apocalisse. Nadal quest'anno ha perso una partita praticamente, cioè al di là di quando giocano ovviamente tra di loro, ma ha perso una partita a Wimbledon, per il resto non perde, deve succedere veramente un disastro. Sì, l'invasione delle cavallette o qualcosa del genere. Bravo, esatto. Senti, ti saluto con questo messaggio da Lorenzo, che è riferito a quanto hai detto tu prima, se fosse proibito il rovescio a due mani sappiamo chi è il migliore, un signore di Basilea, ancora oggi. No, ma speriamo che duri il signore di Basilea, perché ci divertiamo di più, capito? Se c'è anche lui è tutto più divertente. Ma che possa avere la miglior salute del mondo, ci divertiamo altro che. Grazie Stefano. A presto. Ciao. Grazie a Stefano Melocaro, anche a Franco Piantanida, creativo di questo programma, a Roberto Scaltritti in regia. Noi ci sentiamo domani alle 2. Chissà se c'è Pardo domani. Lo troveremo? Boh, vi lascio con questo dubbio. Oggi Carlo non ha mai pronunciato il nome di Mario Balotelli.